un modo un po' strano di iniziare questo cioccolato bianco. La storia della musica rock, come sicuramente non avete mai sentito prima, e forse non sentirete mai. Questo inizio può sembrare strano, ma non lo è, perché questa è la prima canzone che contiene le magiche parole rock and roll. Cantano le Boswell Sisters, un trio famoso negli anni 30 per le loro armonie vocali, protagoniste nel 1934 di questo spot pubblicitario per una compagnia navale. Infatti, le parole rock and roll erano il dondolare della nave. Rock, avanti e indietro, roll, di qua e di là. Espressione che nella comunità afroamericana venne presto usata con connotazioni sessuali. Per fare una storia del rock, se siete seguaci della teoria creazionista, saprete che furono quattro scaltri produttori bianchi, un disgiocchi logorroico e l'avvento del messia di Tupelo a inventare improvvisamente il rock and roll. Facile, semplice, chiaro. Ci risentiamo nel luglio del 54. Se invece siete seguaci dell'evoluzionismo darwiniano, dobbiamo allora risalire all'origine di tutto. A una delle più grandi deplorevoli atrocità che la mente bianca abbia potuto ideare. Quella di considerare una razza inferiore ad un'altra solo per il colore della pelle. Di avere il diritto di rapire intere popolazioni, stiparle come sardine in lunghi e massacranti viaggi transoceanici, per poi ridurli a schiavi e trattarli peggio degli animali. È purtroppo a causa di questa enorme tragedia che possiamo parlare della nascita del rock. When I was young in my prime, I left my home in Carolina. Non è solo grazie alla musica di matrice africana che arriveremo al rock, poiché questo nasce anche dalla fusione con la musica bianca. I primi americani insediati a est, lungo la catena dei Monti Appalachi, suonano oltre a jigs and reels, strumentali per lo più votati al ballo, anche canzoni che parlano di duro lavoro, cuori infranti e nostalgia di casa. Un repertorio che viene dai paesi d'origine, Inghilterra e Irlanda soprattutto, suonati da banjo, violino e una tavola da lavare. Questi gruppi, che suonavano in fiere e feste di paese, saranno le String Band. La loro musica si chiamerà Illy Billy, termine coniato dal cacciatalenti Ralph Peer, dopo aver chiamato The Illy Billies la band di Al Hopkins, uno dei pionieri del genere. Sarà con l'arrivo delle grandi orde migratorie europee che questa musica inizierà a cambiare. I nuovi arrivati portarono con sé le musiche dei loro paesi, valzer, mazurka e soprattutto la polka, molto apprezzata perché allegra, arricchendo la musica Illy Billy. Questo repertorio musicale, da metà dell'Ottocento fino agli anni venti del Novecento, era diffuso principalmente dai minstrel show, gli spettacoli itineranti nei quali artisti bianchi si dipingevano la faccia di nero e la bocca di bianco, facendo apparire i neri come degli stupidi, dei bambinoni sempre servili e sorridenti. La richiesta di spettacoli di maggior qualità, senza battute volgari e donne mezze nude, portò alla nascita del vaudeville. Spettacoli che giravano il paese con ballerini, cantanti e musicisti, dove si fecero le ossa anche grandi artisti afroamericani come Bessie Smith, Ma Rainey o Bill Bojangles Robinson. Il vaudeville ebbe grande successo durante gli anni 10 e 20, poi l'avvento del cinema sonoro e la crisi del 29 lo portarono al declino. A essere sinceri, la colonna sonora di quell'America è Ragtime, una musica essenzialmente pianistica, allegra e spensierata, prima contaminazione fra ritmo sincopato africano e influenze classiche europee. Una musica per tutti, bianchi e neri, poveri e ricchi, perché si poteva ascoltare ovunque, nei saloon, nei bordelli, negli spettacoli itineranti e anche nei locali di lusso. Il più grande esponente è Scott Joplin, l'afroamericano che faceva ballare anche i bianchi, qui con la celebre Maple Leaf Rag. Molto più complessa e articolata è la radice nera del rock. All'inizio del Novecento inizia una conversione su larga scala al cristianesimo, soprattutto da parte di battisti e metodisti. La religione, si sa, è un ottimo ed efficace mezzo di controllo sociale e i predicatori fornivano agli schiavi eccellenti motivi per obbedire al padrone. In cambio, come no, della salvezza eterna. Nelle chiese nascono le praise meeting o ring shout, riunioni per lodare il Signore, dove i canti religiosi acquistano una musicalità inaudita, con urla e grida accompagnati dal battito delle mani, che saranno il germe degli spirituals, i canti estatici e solenni, con testi sulla speranza di liberazione del popolo afroamericano. I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so glad when. Di enorme importanza sono i canti di lavoro, che venivano utilizzati per rendere meno evidente la fatica nelle piantagioni o nella costruzione della ferrovia. Le work song erano spesso di forma libera e personalizzate dal solista che canta e il gruppo gli risponde. Il call and response, tanto caro al blues. Questo tipo di canzoni è quello che meglio conserva il patrimonio africano, soprattutto per l'uso della sincope, l'accentuazione dei tempi deboli, retaggio della concezione ritmica africana. Ma questo podcast e nemmeno il rock esisterebbe se sul finire del 1800, nel profondo sud degli Stati Uniti, in una delle zone più povere del paese, il Delta del Mississippi, alcuni musicisti non iniziassero a suonare una musica nuova. Un canto disperato che diffondeva il triste sentimento di una realtà segnata dalla discriminazione razziale. Questa musica, con forti radici africane, nasce dall'espressione to have the blue devils, essere triste o depresso, e cambia la tradizione europea delle sette note per una scala di cinque note, la pentatonica, alla quale viene aggiunta la blue note, la nota triste caratteristica del blues. Generalmente è composto da tre versi di quattro battute ciascuno, per un totale di 12 battute, e con una struttura antifonale, di chiamata e risposta tipico degli spiritual e delle work song, con la differenza che il ruolo del coro è affidato alla chitarra. Le ragioni di questo canto dolente, di questa poesia greve, stanno tutte nelle condizioni degli afroamericani. Erano più di 4 milioni nel 1845, subito dopo la guerra di secessione, quando venne concessa loro una libertà molto virgolettata. Tanti restarono schiavi liberi dei loro stessi padroni, altri si fecero mezzadri per diventare schiavi dei debiti. Altri ancora se ne andarono al nord a cercare fortuna nelle grandi e ostili città, dove furono ghettizzati nelle peggiori aree urbane e dovettero adeguarsi a svolgere lavori ai quali non erano abituati. Per quelli che rimasero giù al sud, le condizioni erano realmente proibitive. La segregazione era in ogni ambito sociale, il linciaggio era pratica diffusa. Inoltre, gli inquietanti vessilli del Ku Klux Klan cominciavano ad apparire. Il blues canta questa cruda realtà. Inizialmente si diffonde nelle strade e nelle campagne del sud, dove il bluesman, artista nomade del popolo, canta in una sorta di linguaggio in codice tutto il suo dolore, la sua malinconia e la sua rassegnazione. Canta ciò che non ha e mai avrà. Inoltre, con le grandi migrazioni verso nord, si affiancano ai temi realistici tematiche legate al viaggio con metafore come quelle del treno. I bluesmen di inizio secolo sono autodidatti, si influenzeranno a vicenda in un costante rinnovamento musicale, inventando nuove tecniche chitarristiche, soprattutto l'uso del bottleneck, il collo di bottiglia che, fatto scivolare lungo le corde, rende il suono della chitarra simile alla voce. Il padre di tutti quelli che verranno è Charlie Patton, un afroamericano con sangue Cherokee, guarda caso, mingherrino ma con una voce portentosa e autentico showman con la chitarra, che suonava fra le gambe o dietro la schiena. La prima grande influenza per Son House, Robert Johnson, fino ad arrivare a Muddy Waters, Howlin' Wolf e Jimi Hendrix. Questo è Screamin' and Hollerin' in the Blues, lui è Charlie Patton. Don't you know it'll break our heart? No, I live in this way. And we're up in the morning, things all around your bed. If I woke up in the morning, things all around your bed. Girl, I know how you'll be. Turn my feet to the wall and I didn't know what to say. No use, darling, no use feeling and crying. No use, darling, no use feeling and crying. For you know you got a home, mama, long as I got mine. Hey, Lord, I'm with you, oh, my wicked soul. Oh, Lord, I'm with you, oh, my wicked soul. Hey, you know I ain't gonna miss you. I wouldn't miss you, baby, for my waiting gone. Oh, no way, baby, don't you wanna go. I'm gonna wait, sweet mama, don't you wanna go. I know you wanna go, baby. Take all to tell while not be by your mom. ma ciò che cambiò radicalmente il mondo, non solo musicalmente parlando, furono gli anni 20. The Roaring Twenties, come amano venderli, i ruggenti anni 20. Gli Stati Uniti uscirono vincitori dall'orrore della prima grande guerra. Ci fu un periodo di grande prosperità economica, di enorme progresso, di fioritura culturale con il rinascimento di Harlem, gli spettacoli di Broadway, del cinema muto di Buster Keaton, Rodolfo Valentino o quel geniaccio di Charlie Chaplin, di un'ottima generazione di scrittori come Faulkner, Hemingway, Dos Passos, ma soprattutto sarà il romanzo Il Grande Gatsby di Fitzgerald che dipingerà perfettamente quegli anni. Gli anni del jazz, dello scatenato Charleston in particolare, nato a metà degli anni 10, ma esploso nel 1924 con questa Running Wild Do di James P. Johnson. Il ballo era ispirato alle danze popolari africane. Inizialmente, come spesso accade alle novità, fu mal visto dai ben pensanti e bandito da alcune città, cosa che non fece altro che aumentarne la popolarità. Questi balli selvaggi vedevano protagoniste le flappers, le truccatissime ragazze con i capelli a caschetto, i vestiti che mostravano le caviglie e che fumavano e bevevano in pubblico, primo esempio di donna emancipata. Furono gli anni nei quali Ford decise di applicare la catena di montaggio di Taylor alla sua fabbrica di automobili, rivoluzionando per sempre il mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che presentava la grandissima novità della giornata di 8 ore, frutto delle innumerevoli e sanguinose battaglie del movimento operaio. Con questa conquista nascerà il concetto di tempo libero. L'avvento della catena di montaggio e la produzione in serie pose all'economia americana il problema di creare un consumo di massa. Fino ad allora il consumo era contrario a un valore come il risparmio. L'acquisto di beni superflui era visto come uno spreco di denaro e un'inutile ostentazione agli occhi degli altri membri della comunità. Per favorire il consumo di massa era indispensabile che tutti acquistassero i prodotti. Inoltre occorreva eliminare il senso di colpa per lo sperpero di denaro. Con l'aiuto di nuove tecniche pubblicitarie, resero il consumo non solo ben visto, ma addirittura necessario. La soddisfazione che risolve un bisogno. Massima espressione di una parola cara a tutti: libertà. Io compro, dunque sono. Era nata la società di consumo, favorita anche dal fatto che se i soldi non li avevi tutti, maledetti e subito, potevi pagare con comode rate, rendendo l'acquisto accessibile a tutti. In questi anni si popolarizzano il telefono, quello fatto solo per parlare, gli elettrodomestici di ogni tipo, come lavatrici, frigoriferi, tostapane, ma soprattutto sarà l'era dell'automobile e di rimbalzo l'epoca del petrolio. Non solo per alimentare i motori, ma anche per produrre l'asfalto che cambierà per sempre il paesaggio del pianeta. Ma gli anni ruggenti sono anche quelli del proibizionismo, dell'alcol illegale negli spichisi, dei fasti del crimine organizzato. Sono gli anni del terrore rosso, della minaccia di una rivoluzione comunista negli Stati Uniti, anche se lì i comunisti ancora praticamente non c'erano. Iniziò una repressione soprattutto contro anarchici, socialisti e dissidenti in genere. In alcuni stati, fra i quali New York, furono espulsi membri socialisti regolarmente eletti. Il sindacato rivoluzionario degli Industrial Workers of the World fu messo fuori legge in 30 stati. Ci furono forti limitazioni all'immigrazione, alla libertà di stampa e parola, decine di migliaia di arresti e deportazioni, fra cui anche la donna più pericolosa d'America, Emma Goldman, spedita in Russia a vedere con i propri occhi gli orrori della dittatura del proletariato. In questi anni prende forza, grazie alla guida di Edgar J. Hoover, un corpo di polizia famoso per la sua brutalità, per le sue palesi violazioni ai diritti dei cittadini e per la decisa repressione di oppositori di ogni genere. era supportato da un'opinione pubblica sempre più desiderosa di sicurezza e disciplina, stanca dei continui scioperi e disturbi, delle pericolose ondate migratorie portatrici di idee rivoluzionarie che minavano la sicurezza della società americana. Il caso più clamoroso fu quello di Sacco e Vanzetti, i due anarchici italiani accusati ingiustamente dell'omicidio di un portavalori che finirono sulla sedia elettrica nonostante una campagna mondiale per la loro soluzione che durò 7 lunghi anni. Per quel che ci riguarda, sono anni fondamentali perché si popolarizza la radio. Nel 1920, dai tetti di una fabbrica, emette il suo primo vagito, la prima radio americana a trasmettere regolarmente, la KDKA. In pochi anni saranno più di un migliaio. Proponevano una musica suonata dal vivo, permettendo agli artisti di superare i confini locali. Un capitolo a parte merita New Orleans, città unica per mescolanza di razze, culture e classi sociali. Unica città d'America che permetteva suonare le percussioni agli afroamericani nei giorni di festa, nella celebre Congo Square. Musicalmente si crea uno stile unico e inconfondibile, sintetizzato nelle marching band, le fanfare che accompagnavano i pittoreschi funerali, e le brass band, orchestrine di ottoni per l'intrattenimento, palestra dei padri fondatori del jazz. Dal 1896 New Orleans si trasforma nella capitale del vizio d'America grazie a un'ordinanza del consigliere municipale Sidney Story, che circoscrive la prostituzione in un quartiere di 38 edifici vicino a Canal Street. Gli abitanti la battezzarono simpaticamente Storyville, che rapidamente si trasformò nella mecca del sesso e della musica. Si suonava ovunque, nei bar, nei bordelli, per strada, nei negozi, nei cabaret, nelle sale da ballo. In quei locali si esibiva gente come Jelly Roll Morton, King Oliver o il giovane Louis Armstrong. Fino al 1917 queste orchestre giravano il paese gettando il seme del jazz a Chicago, New York o in California. Nel 1917 Storyville venne chiusa, creando una diaspora di musicisti verso altre città o suonando nei riverboat, i battelli che solcavano il Mississippi. Personaggio cruciale per la storia della musica è Emil Berliner, che nel 1888 inventa il grammofono e 6 anni più tardi il disco a 78 giri. L'avvento del disco cambierà per sempre il rapporto popolare con la musica, portandola nei locali e nelle case, generando un ricco settore economico. Nei primi anni 20 le case discografiche iniziarono a interessarsi al mercato afroamericano. Una schiera di cacciatalenti fu inviata nel profondo sud alla ricerca di nuovi artisti. In pochi anni si era creato il fiorente mercato dei Race Records, la musica razziale, un'etichetta dispregiativa che rimase in uso fino alla fine degli anni 40, quando tutta la musica nera passerà a chiamarsi Rhythm and Blues. Grazie al lavoro di questi talent scout o di melomani incalliti, si è potuto conservare il patrimonio musicale americano. Su tutti si eleva la figura del musicologo passionale Alan Lomax, The Man Who Recorded the World, l'uomo che registrò il mondo, uno dei personaggi più importanti nell'ambito musicale mondiale, incaricato dal Congresso degli Stati Uniti di registrare i suoni americani. Un amore sconfinato per la musica che lo portò in varie parti del mondo, Italia compresa. Nel 1920 arriva anche la prima registrazione blues, con questa Crazy Blues di Mamie Smith, che inaugurerà la stagione delle grandi voci femminili, come Ma Rainey, Ida Cox, Alberta Hunter o la più amata, la più sensuale, la leggendaria Bessie Smith, l'imperatrice del blues. Careless Love Blues. Bessie Smith. Di questi anni venti ce n'è una che riveste una particolare importanza. Non è un blues canonico, ma è fortemente impregnato di musica ecclesiastica. Un brano che trasmette un senso di profonda desolazione e tristezza. I lamenti della voce e la chitarra slide suonata con il coltello accentuano la malinconia, creando un canto angosciato unico nel suo genere. Furono i cacciatalenti della Columbia a scovarlo nelle strade di Marlin, nel Texas, dove suonava per qualche spicciolo. Quando era solo un bambino, durante un litigio fra i genitori, la madre gli gettò varachina sul viso, rendendolo cieco. Da allora sarà per tutti Blind Willie Johnson, uno dei grandi bluesmen degli inizi. Nel 1927 registra Dark Was the Night, Cold Was the Ground, che è una delle 27 canzoni spedite nello spazio per far conoscere agli alieni la musica terrestre. Thank you. Io sono diventata donna ascoltando Cioccolato Bianco. I'm a dust bowl refugee, just a dust bowl refugee. La fine degli anni venti sarà anticipata di qualche mese, da quel giovedì nero d'ottobre del 29 che inaugurerà la Grande Depressione. Il crack economico che fece sprofondare milioni di persone nella povertà più assoluta. Il castello di carta era crollato improvvisamente. La forte speculazione della borsa, la sovrapproduzione industriale e agricola, l'eccessivo ricorso al credito delle famiglie furono le cause principali del tracollo del sistema capitalistico. Ad aggravare la situazione, un lungo periodo di siccità, unito a una scellerata politica agraria della monocultura, impoverì il terreno causando il disastro ecologico conosciuto come le Dust Bowl, le tempeste di sabbia che colpirono gli stati delle grandi pianure, Oklahoma, Texas e Kansas soprattutto, provocando un esodo biblico di oltre 500.000 di persone verso la terra promessa California. Qui si ritrovarono a vivere in baraccopoli prive di ogni servizio igienico e lottare con altri disperati come loro per mettere qualcosa sotto i denti. Il romanzo capolavoro di Steinbeck, Furore, ritratta magistralmente l'odissea di queste famiglie, gli Okies, come venivano comunemente chiamati, anche se non venivano dall'Oklahoma. A raccontare gli anni della Grande Depressione, le miserie della vita quotidiana, la realtà operaia e contadina nel contesto delle grandi lotte sociali, fatte di proteste, scioperi generali e occupazione di fabbriche, ci penseranno un manipolo di cantautori. Saranno i fondatori della folk song americana, che racconteranno in modo crudo e diretto la realtà della gente comune. In your crops and in your fruit. In questi anni nasce la figura del hobo, un viaggiatore perpetuo alla ricerca di lavori occasionali, il figlio ribelle del sistema capitalistico. Lobo è un viaggiatore per scelta, cercatore instancabile di nuove opportunità, un eroe romantico che rifiuta questa società. Viaggiando per il paese in lungo e in largo, avevano sviluppato in varie città, grazie all'aiuto del sindacato rivoluzionario degli Industrial Workers of the World, una fitta rete di mutuo appoggio. Una società parallela che, oltre a vitto e alloggio, forniva servizi medici e scolastici. Il personaggio che fonde la cultura hobo con quella del cantautore è Woody Guthrie, uno dei massimi esponenti della cultura americana. Guthrie è il primo a usare la musica come mezzo di denuncia, a commentare con arguzia e spirito critico i conflitti sociali dell'epoca. Un eroe estremamente combattivo a favore di libertà, giustizia e rispetto. La sua voce ruvida e nasale canterà la miseria, la disperazione e lo sfruttamento dell'America dei perdenti, dei diseredati, di quelli che non ce l'avevano fatta. Il suo impegno politico, la sua decisa militanza antifascista, sulla sua chitarra si leggeva "This machine kills fascists", la sua implicazione nelle lotte sociali lo fecero entrare nel mirino dell'FBI e nella lista nera di McCarthy, causandogli non pochi problemi. Woody è il più grande poeta rivoluzionario d'America, ispirazione per Pete Seeger, padre di Dylan e di tutti i suoi seguaci. Guthrie, anche lui un Okie, ha il merito di documentare tutto ciò che aveva visto nel lungo viaggio verso la California e trasformarlo in musica. Questo repertorio musicale sarà conosciuto come Dust Bowl Ballads e vedrà la luce solo nel 1940 grazie alla registrazione di Alan Lomax. In questa Vigilante Man se la prende con la crudeltà e brutalità degli uomini addetti alla sorveglianza dei treni, i mezzi di trasporto preferiti dagli hobo. Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me, what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that a vigilante man? Rainy night down in the engine house, sleeping just as still as a mouse. Man come along and he chased us out in the rain. Was that a vigilante man? Stormy days we'd pass the time away, sleeping in some good warm place. Man come along and we give him a little race. Was that a vigilante man? Preacher Casey was just a working man, and he said, unite all you working men. Killed him in the river, some strange man. Was that a vigilante man? Oh, why does a vigilante man, why does a vigilante man carry that sawed-off shotgun in his hand? Would he shoot his brother and sister down? I rambled around from town to town, I rambled around from town to town, and they herded us around like a wild herd of cattle. Was that the vigilante men? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've heard his name all over the land. Musicalmente parlando, furono anni di enorme importanza per lo sviluppo del rock. Furono gli anni dello splendore del jazz delle big band, dello swing, che era un altro punto di incontro fra la cultura bianca di discendenza europea e quella afroamericana. Contributo fondamentale nella nascita dello swing e del rock and roll fu il boogie-woogie. Il boogie è un blues dal ritmo rapido, essenzialmente pianistico, nato negli anni 20 nel sud degli States, molto popolare e influente negli anni 30 grazie al successo del brano di Clarence Pinkston Smith, Pinkston Boogie Woogie, che diede il nome allo stile. When I say stop, don't move a pig. Uno dei momenti più felici del Boogie Woogie è con Honky Tonk Train Blues del super pianista di Chicago Mead Lux Lewis, registrata originariamente nel 1927 ma con un successo a scoppio ritardato di 10 anni. Mead Lux Lewis vide aumentata la sua popolarità partecipando al famoso From a Spiritual to Swing al Carnegie Hall di New York, il concerto organizzato dal produttore cacciatalenti dal fiuto speciale John Hammond. L'evento, composto da 2 serate, il 23 e 24 dicembre del 38, metteva in evidenza l'evoluzione musicale partita dagli Spirituals per arrivare allo swing. Il cast, che era veramente stellare, vedeva Count Basie, Benny Goodman, Big Joe Turner, Sonny and Terry, Big Bill Bronzy, Charlie Christian e tantissimi altri, fra i quali Mead Lux Lewis, che sbalordì i presenti con questa Honky Tonk Train Blues. Thank you. Peggy era un'evoluzione del Fast Western o Fast Texas o Shuffle, un suono che imitava il ritmo del treno. Era infatti suonato sui carrelli dei treni, i boogies, per intrattenere i passeggeri e seguiva la cadenza delle assi che battevano sui binari. La parola boogie potrebbe avere origine africana, infatti l'espressione boogie fa riferimento al ritmo o alla danza sfrenata. Uno dei primi esempi di boogie vicini al rock and roll ce lo dà il pianista di Chicago Albert Ammons, che con i suoi Rhythm King fa un rifacimento del Pinestone Boogie Woogie con contrabbasso e batteria che chiamerà Boogie Woogie Stomp. Per stavolta è tutto, gente. Nel ricordarvi che la vostra felicità è anche la mia, vi do appuntamento al prossimo episodio di Cioccolato Bianco. La storia del rock, quella vera.